Six, six, six. Questo è solo per la fottuta passione. Perché se non si facesse questa roba si starebbe troppo male. Questo è un inedito, 2010. Registro in camera col mic e una scheda audio. Sogno il mio studio, non diventare milionario. Trasmetto appena sveglio con la mia radio e regalo spazio, perché io non visto di rado. Anni fa un ragazzo con nome rap, ma non c'era la roba del web. Col CD e le cassettine, poi smazzata le jam. Già le jam, da quanto tempo che non vedo una jam. Vabbè, i tempi corrono come l'evoluzione. Tasteroni dei 90, bit grezzi e campioni. Poi la lotta al commerciale, come se facesse schifo a guadagnare. Se firmavi con la major, eri infame. Noi da sole a improvvisare, fumando e smanettando sul PC per capire ed imparare. Quando volevo un po' parlarne mi sentivo a parte tutto lo sentivo già quanto era grande. Sì, amo questa roba cazzo, questa è la passione, questo è svegliarsi giorno dopo giorno, sapendo di avere sempre qualcosa da dire, sempre pronti a fare cose nuove, spingendo in alto questa roba, solo con il cuore, sulle mani raga, questa è la riviera, questa è la provincia, questa è la voglia di fare, questo è il XXX, la libertà di parola. Se vuoi commentarlo, apri la bocca e dai fiato, perché basta come parlo per sentirti inadeguato. A un tratto ho fatto uno scatto e il risultato è che rimango solamente più scoppiato. Ma intanto ho amici Riviera che te lo sbattono, e quello che non ho fatto lo farà poi qualcun altro. Contando che ci metto il cuore pure tanto, e se dici vero amore l'ho trovato ballando. Io ne candido né santo, c'è chi qui il rap lo candida al campo santo. Metto le cuffie e cammino distratto, e il risultato è soltanto più distacco. E non ho tempo per lo scazzo, se ti rompo il culo è perché tu mi hai rotto prima il cazzo. E trovo sempre il tempo per il saluto, ma non vivo di ricordi di chi escludo. Basta e chiudo. Vino e che jebine, questo è un inedito, XXX, non mollate mai raga. Questa qua è la voglia di fare, questa è la passione, questa qua è roba in cui mettiamo il cuore. Già non è a scopo di lucro, siamo ragazzi con le tasche vuote, ma lo facciamo perché abbiamo un cuore grande raga, e tiriamo su questa cazzo di città che non c'ha un cazzo da offrire. Tirate sulle mani, ok? XXX, XXX. Noi diamo lo spazio, perché noi lo spazio non l'abbiamo mai avuto, cazzo, volete capirlo o no? Sfruttate raga, sfruttate il momento. Non bisogna mai mollare, quando c'è di mezzo la passione, non bisogna mai mollare. Avete presente in Bronx quella frase? Non c'è niente di peggio del talento sprecato. Boh!